désir désert ça marche doucement. Il camion di Algerini è in pan sulla pista, fermo da un giorno. Aspettano qualcuno. Li aiutiamo a riparare una gomma, mentre sulla sabbia preparano il tè. Un Tuareg portò una capra, la uccide e la divide. La morte è silenziosa, pulita, partono verso il sud. Noi saliamo per l'Algeria. Désir, désert, ça marche doucement. Nel cortile dell'hotel Atlantide, le macchine fuori uso del rally Parigi-Dakar. I camerieri neri parlano francese. C'è un patio dove la mattina un'algerina porta latte in polvere. Dormo nella camera 19. Sul letto zanzariere appese, come reti di pescatori la sera bevo birra al ritmo del ventilatore. Désir, désert, ça marche doucement. Da questa spiaggia ci si può tuffare in cielo, nessun limite, nessuna direzione. Il deserto ha mille strade aperte. A Tessalit un prigioniero viene, ci chiede una maglietta di cotone. Prigioniero senza catene. Il deserto è anche una prigione. Ho visto Fort McMahon, le feritoie per i fucilieri. Venivano dalla Francia gli uomini della Legione. Désir, désert, ça marche doucement. Le interminabili attese davanti alle dogane, si incontrano viaggiatori, ragazzi senza direzione. I cammelli hanno colli di cigno sull'orizzonte turchino. E non mi stupirei di vederti arrivare da una duna. O su un galeone spagnolo passano contrabbandieri di macchine, volano verso il Niger. Désir, désert, ça marche doucement. Ça marche doucement. Désir.